l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Questo è Darwin. Ciao Chiara. Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora andiamo in Cina in questa puntata. Ci andiamo con Como Next, che è un innovation hub. Adesso vi spieghiamo di che cosa si tratta. Vuol dire portare in Cina innovazioni idee italiane, e ne parliamo con Stefano Sogliano, che è il direttore di Como Next. Benvenuto. Benvenuto. Grazie, grazie mille, grazie a tutti e un saluto a chi ci sta ascoltando. Allora, provo una definizione sintetica di Como Next. È una struttura grossa, ci lavorano quasi 1000 persone, è un innovation hub, ci sono credo al momento circa 160 aziende che lavorano all'interno di questa struttura, e nelle varie attività di Como Next c'è anche quella di raccogliere idee di innovazione e creare un contatto con investitori cinesi pubblici e privati. Sì, il nostro è effettivamente un innovation hub dove ospitiamo aziende, ospitiamo lavoratori della conoscenza, li aiutiamo a mettere insieme le competenze, i loro saperi e portiamo in giro per il territorio nazionale e anche oltre quello che sono le loro conoscenze e i servizi di innovazione che sono in grado di esprimere. Ecco, direttore, quali sono le difficoltà più grosse che si affrontano appunto quando si va a dialogare con degli imprenditori, degli innovatori cinesi? C'è ovviamente una grande differenza culturale, di linguaggio mentale anche, che va superata. Ecco, quali sono i punti più delicati, anche gli errori che si possono commettere? Sì, la cosa buffa in questa direzione è che noi tendiamo a fidarci poco dei cinesi, tendiamo a pensarli come nel nostro immaginario collettivo i cinesi sono quelli che copiano, quelli che cercano di sfruttare il più possibile le competenze degli altri per copiarle e poi farle proprie. La stessa cosa però accade dal loro punto di vista nei nostri confronti, nel senso che c'è spesso una diffidenza iniziale ad avere a che fare con gli italiani, salvo poi che quando ci si conosce un po' meglio ci si stima reciprocamente. La Cina è un paese di grandi capacità innovative, soprattutto nel mondo del digitale, nel mondo delle telecomunicazioni, ma hanno un gap ancora forte da recuperare in tutto quello che è, per esempio, la manifattura da un punto di vista di automazione. Quindi è abbastanza semplice essere competitivi nel mondo quando il costo della manodopera è molto basso, come è successo per tanto tempo, ma quando comincia ad alzarsi, cosa che sta succedendo anche in questo momento in Cina, il costo della manodopera, diventa importante capire come portare automazione, come portare anche là l'industria 4.0, comunque la smart factory. Infatti c'è una voce che circola tra chi fa innovazione, cioè che in Cina ci utilizzano anche per capire un po' in generale come vanno le cose nel mondo dell'innovazione, ovvero in alcuni campi oggi sono molto avanzati, ma lo diceva anche lei, in altri no. Allora l'incontro che voi avete è anche un incontro di conoscenza, vi chiedono delle cose un po' fondamentali dell'innovazione e non solo l'idea specifica, è vero questo allora? Sì, è vero, la percezione che abbiamo è che loro abbiano capito che non possono andare avanti copiando, cioè hanno capito che l'idea di partnership, l'idea di collaborazione è fondamentale nello sviluppo sano e organico di quella che è i loro comparti produttivi. E devo dire che in questi ultimi, forse negli ultimi 2 anni, sicuramente c'è stato un cambiamento di passo dal punto di vista della possibilità di collaborare realmente. È chiaro che bisogna essere il più possibile pronti a mettersi in gioco, perché di là abbiamo capito esserci la stessa volontà di mettersi in gioco che prima non c'era. Poi dopo le soddisfazioni arrivano, diciamo che noi italiani dal punto di vista dell'innovazione nel settore della manifattura raccogliamo successi, insomma. Sì, no, assolutamente sì, e devo dire un'altra cosa che è interessante, che non avrei pensato. Abbiamo riscontrato un ruolo delle maggiori banche cinesi, un ruolo molto interessante, perché loro hanno avviato un modello tale per cui aiutano i loro principali clienti nella strada e nel percorso verso l'innovazione, verso il rinnovamento delle loro capacità produttive, cercando di mettere, di fare da trade union tra il cliente della banca e i sistemi di innovazione, che potrebbero essere il nostro, ma insomma anche altri, anche Politecnico a livello universitario in maniera importante. E quindi è interessante questo ruolo di intermediazione del sistema bancario e ovviamente immaginatevi le grosse banche della Cina, che tipo di forza d'urto possono mettere in campo quando cominciano a raccontare e a spiegare ai loro clienti perché può valer la pena intraprendere dei contatti per l'innovazione con aziende che non sono cinesi ma che stanno per esempio in Italia piuttosto che in Germania o da altre parti. Grazie Soliano, buon lavoro. Grazie a tutti e un saluto cordiale. Buon lavoro Soliano. Federico, ti ricordi cosa hai fatto il 15 luglio del 2001? Direi di no, probabilmente avevo caldo. Ecco, allora non ti avrebbero preso come soggetto per lo studio sulla ipermemoria. Quella super, quella che riesce a ricordare i dettagli anche a distanza di anni. C'è un nuovo studio italiano coordinato dal Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell'Università La Sapienza di Roma ed è anche in collaborazione con la Fondazione Santa Lucia, sempre di Roma. Questo studio rivela l'esistenza di un'area cerebrale che permette alle persone dotate di ipermemoria autobiografica di datare i ricordi. Adesso ci facciamo spiegare tutto da Patrizia Campolongo, che è coordinatrice di questo studio. Benvenuta Darwin. Grazie mille. Ci spiega che cosa avete studiato, i meccanismi cerebrali di questi individui che sono detti ipermemori, che hanno questa supermemoria, ma chi sono? Questi sono individui molto rari, esistono soltanto due popolazioni ad oggi che sono studiate, una l'abbiamo noi, in Italia la stiamo studiando noi, l'altra è negli Stati Uniti. Sono persone dotate di una ipermemoria autobiografica, cioè relativa soltanto ad eventi di vita vissuta, si differenziano dai calcolatori, dagli atleti della memoria che invece hanno un'ipermemoria diversa che è relativa più a quella che è la memoria semantica. La memoria semantica noi intendiamo ricordare per esempio i nomi di tutte le capitali europee o i nomi delle piante. Questi invece ipermemori hanno un'ipermemoria autobiografica, è la prima volta al mondo che si comincia a studiare questo, e ricordano con una precisione di dettagli infinita, come se avessero proprio un bignami dentro di loro, tutto quello che hanno vissuto durante la loro vita. E ciò che è impressionante è la capacità che hanno di datare un evento. Se chiedo a lei se si ricorda quando ha imparato ad andare in bicicletta, probabilmente, siccome è un evento molto emotivamente carico, lo ricorderà, ma non saprà datarlo. O arriverà più o meno a dirmi l'anno, se comincia a ricordare se era in prima, seconda elementare. Loro dicono il giorno, dicono come erano vestiti, dicono chi era con loro, e non solo di eventi emotivamente importanti, ma anche di eventi che per noi sono neutri, che non hanno nessuna valenza. Presentano caratteristiche cerebrali, diciamo, differenti da noi normomemorati, o hanno delle caratteristiche, attivano delle aree cerebrali differenti? È stato dimostrato anni fa negli Stati Uniti, una decina d'anni fa, che hanno delle lievissime differenze a livello delle strutture, ma veramente lievi, che non possono essere responsabili. Quindi quello che sta emergendo sugli studi fatti da noi, che sono studi fatti in risonanza magnetica funzionale, che è, per capirci in maniera più facile, è volta a cercare di capire come le aree del cervello parlano tra di loro e si scambiano le informazioni, quello che sta emergendo è che queste aree del cervello in questi individui parlano in maniera diversa, in maniera più efficiente, se vogliamo, quando devono richiamare i ricordi. Dunque, avere questa ipermemoria, sì, non so, forse è sbagliato, potrebbe essere anche utile, però la sensazione che noi abbiamo è che possa essere anche molto difficile, insomma, si è imprigionati in tutti gli atomi, una cosa anche molto pesante. Però per capire la differenza tra le varie cose da ricordare, poi queste persone dimenticano le chiavi, no? Assolutamente sì, queste persone sul dimenticare le chiavi sono esattamente simili a noi, non stanno né più su né più giù della media della popolazione, perché ricordare le chiavi o ricordare dove ho parcheggiato la macchina è un altro tipo di memoria, è una memoria a breve termine, quasi una memoria di lavoro, quella che ci serve per andare avanti nelle attività quotidiane, mentre la memoria autobiografica è una memoria relativa agli eventi, alla personalità, e ci serve proprio per costruire la nostra vita. Non è una condizione che crea una grande ansia, perché poi sto pensando quando uno va avanti con gli anni, in cui quindi questo enorme archivio di memorie è pesantissimo. Esatto, allora questi individui molto spesso, soprattutto nei media, sono stati scambiati per geni della memoria. Non è così, alcuni stanno benissimo, hanno capito come sfruttare la loro memoria, ne sono contenti. Altri invece durante la maggior parte della loro giornata ne sono vittime, perché riferiscono di non riuscire a mettere a tacere i ricordi quando non sono necessari. Io in questo momento devo parlare con lei e devo focalizzare il mio cervello sulla memoria, non devo cercare di ricordarmi quando mio figlio ha tirato sul primo dentino, per capirci. Questi individui invece non ci riescono, hanno un overflow dall'inglese, un continuo riaffiorare di ricordi che in quel momento non sono necessari. Quindi molto spesso loro sviluppano ansia, sviluppano tendenze a disturbi psichiatrici ossessivo-compulsivi, ma nella maggior parte dei casi si sentono oppressi da questi ricordi. Immagino che il vostro studio serva proprio a questo, cioè capire i meccanismi cerebrali di questi soggetti ipermemori, ma anche di quei soggetti che contrariamente hanno problemi o patologie legate ai deficit di memoria. Assolutamente sì, perché il nostro studio è duplice, ha una duplice valenza, cercare di capire che cosa loro hanno di diverso, ma più che altro come fanno funzionare il cervello in maniera diversa per richiamare i ricordi. Se pensiamo all'Alzheimer, la demenza senile, va a toccare proprio i ricordi autobiografici, prima quelli più brevi, poi nel tempo anche quelli più lunghi. Quindi è una dei tipi di memoria molto simile che è compromessa. Adesso invece abbiamo uno strumento grandissimo, che sono questi studenti, queste persone ipermemory, che possiamo studiare per capire che cosa dobbiamo fare per cercare di aiutare chi invece ha dei deficit di memoria. Ad esempio, io le faccio un esempio, noi abbiamo scoperto che nel richiamare ricordi molto lontani e quindi nel vederli in maniera molto pulita dal punto di vista dei dettagli, questi individui hanno una specializzazione maggiore di un'area del cervello importante per i ricordi, che è la corteccia prefrontale. Man mano andando avanti con gli studi, nulla toglie che magari da qui a 5-10 anni non si arrivi a capire come stimolare quest'area per cercare di aiutare persone che non riescono a ricordare. Andate avanti così, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo, grazie davvero Campolongo. Crepi e arrivederci. Buon lavoro. Grazie mille. Beh, questa roba qui mi fa un po' impressione, tremendo, ricordare tutto. Addirittura come si era vestiti e il primo giorno in bicicletta. Insomma, davvero impressionante. Avranno una RAM con parecchi terabyte. Va bene, grazie agli ascoltatori per averci seguito fin qui. Noi torniamo prestissimo con una nuova puntata di Darwin. Ciao! Ciao Chiara, e a presto. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.